24 2024 di Enrico Pagliarini. La puntata del 14 giugno 2014, benvenuti o bentornati a 2024. In questa puntata parleremo di privacy, un tema che ad intervalli, non so se regolari o irregolari, comunque torna di attualità. Ci sono alcune notizie della settimana, anche alcune ricerche della settimana. Parleremo di satelliti, uno strumento estremamente importante per la vita di tutti i giorni, dal banalissimo oramai GPS, che diventerà a partire da, in teoria, il prossimo anno, poi vedremo, Galileo europeo, diventerà, si affiancheranno i servizi Galileo al GPS, ma i satelliti ci regalano tantissime cose. Ne parleremo tra poco. Adesso, come sempre, iniziamo dalle nostre Digital News. Digital News. Allora, non è una settimana brillante in termini di notizie, tuttavia ci sono sempre notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Iniziamo da una notizia italiana e parliamo di streaming musicale. Potremmo dire che ormai i servizi di streaming di musica tipo Spotify stanno diventando quasi una commodity. Allora, dopo aver cambiato il nome di Cubo Vision in Team Vision, Telecom Italia ha cambiato anche il servizio musicale. Adesso si chiama Team Music, streaming musicale illimitato a 4 euro al mese, ma soprattutto, forse questa è la caratteristica principale che in realtà poi sul sito internet di Team viene quasi nascosta, invece penso che dovrebbe essere messa in maggiore evidenza, la caratteristica più importante è che questo servizio non erode il piano dati in mobilità, mentre altri servizi che sono scollegati all'operatore naturalmente erodono il piano dati in mobilità. E molti ascoltatori, anche questa settimana un ascoltatore ha scritto giustamente dicendo: il problema è però che se ho pochi giga questi finiscono velocemente se io ascolto molta musica. Digital News. A proposito di streaming, anche Amazon ha lanciato, per ora solo negli Stati Uniti, un proprio servizio che rientra nel pacchetto Prime, cioè gli abbonati ai vari servizi premium di Amazon. Allora, questo servizio negli Stati Uniti costa non poco, $99 all'anno. Ci sono varie cose incluse in questo abbonamento. Adesso c'è anche Amazon Prime Music, che per il momento ha un numero di brani decisamente limitato rispetto ai concorrenti, ma comunque è un primo inizio. Vedremo se questo annuncio, questo lancio di questo servizio avrà qualche cosa a che fare con un ulteriore annuncio che verrà fatto, e non si sa, alcuni dicono che verrà presentato uno smartphone. Vedremo se sarà così il 18 giugno. Digital News. C'è stato un grave blackout dei servizi internet e voce di Wind Infostrada in Italia. Venerdì 13 dalle 11 alle 15, ma c'è stata una coda di disservizio durata fino al tardo pomeriggio. Ha messo appunto KO tutti i servizi, sia internet che voce, dei clienti Wind Infostrada. Nessuna spiegazione è stata data dall'azienda, ma solo un comunicato di scuse in cui si definisce l'anomalia sulla rete un evento eccezionale. Wind, lo ricordiamo, è di proprietà della russa Vimpelcom da 3 anni. Digital News. Nokia ha acquistato una società che si chiama Medio Systems per introdurre nel servizio di Map Here una tecnologia di analisi predittiva per anticipare le intenzioni degli utenti quando usano le mappe. Questo è un trend molto interessante, quindi le mappe imparano come noi utilizziamo questi servizi e cercano di prevedere quali sono le nostre ricerche, un po' come succede già oggi con alcuni servizi quando li apri che magari ti chiedono: stai andando a casa? E uno dice sì, sto andando a casa, e ti suggerisce la mappa per andare a casa. Questo è un annuncio relativo a Nokia, quello che è rimasto di Nokia in Finlandia, che si occupa di servizi, e l'aspetto prevalente, il servizio principale, è appunto quello delle mappe Here, che vengono utilizzate anche da Microsoft negli smartphone Lumia. Digital News. Dropbox, tra i tanti annunci che ci sono dalla settimana di aziende che comprano altre aziende, Dropbox ha comprato Mobile Span, una startup che offre accesso sicuro ai file anche aziendali da qualunque dispositivo. Rientra nel capitolo Bring Your Own Device, cioè porta qualsiasi dispositivo tu voglia in azienda, quindi il tuo smartphone, il tuo tablet, il tuo computer, perché magari sei affezionato a quello, e questi servizi cercano di rendere sicura l'interazione anche con i file aziendali. Digital News. Ultima notizia che riguarda Vodafone: Vodafone Italia, che ha annunciato un'accelerazione della copertura 4G, c'è una specie di gara tra TIM e Vodafone, che sono i due principali operatori che stanno coprendo l'Italia con LTE, con 4G. Allora, Vodafone ha annunciato che verranno accesi impianti in 100 nuovi comuni ogni mese, fino ad arrivare ad una copertura del 90% della popolazione entro il 2016. Vodafone sta lavorando naturalmente, e immagino anche, ad una infrastruttura in fibra ottica per collegare le stazioni radio base in 4G, perché non è vero quando si dice ma potremmo fare tutto in 4G, ma sotto l'antenna ci vuole la fibra ottica che riesca a tenere gigabit di dati ogni minuto, ogni secondo. Bene, adesso parliamo di satelliti. Perché? Beh, per vari motivi. C'è una notizia di questa settimana che riguarda, meglio, due notizie che riguardano il mondo dei satelliti e soprattutto delle fotografie scattate dai satelliti per uso commerciale. E questo è un business che crescerà molto nei prossimi anni. Si possono fare tante cose con queste fotografie e tra poco parleremo di una delle tante cose che si possono fare. Allora, le notizie sono: la prima riguarda Google, che ha acquistato per 500 milioni di dollari, nemmeno tanto se guardiamo gli ultimi annunci dei grandi giganti della rete che hanno speso miliardi per le ultime acquisizioni, ha acquistato una società, una startup californiana che si chiama Skybox Imaging, una società che produce piccoli satelliti per scattare immagini, sia fotografie che video, della superficie terrestre. Sono satelliti piuttosto piccoli. Fino a qualche anno fa i satelliti per fare fotografie, o comunque i satelliti in generale, erano non tutti i satelliti, comunque soprattutto quelli per fare le fotografie, erano satelliti piuttosto ingombranti. La novità di questa società è di aver creato un satellite che pesa meno di 100 grammi, di 100 kg, scusate, di 100 kg, e fa fotografie, riesce a scattare fotografie con una precisione di circa un metro. C'è anche un'altra società che si chiama Planet Labs, che invece ha costruito addirittura satelliti che pesano meno di 5 kg, quindi molto piccolini. In questo caso la risoluzione è di 3-5 metri, però giusto per avere un paragone, una delle società più famose o comunque più grandi, una delle prime a lanciare satelliti privati per scattare fotografie dall'alto, la Digital Globe, ha satelliti che invece pesano 2800 kg, quindi stiamo parlando di cose piuttosto piccole rispetto ai classici satelliti. Nel caso di Digital Globe la risoluzione arriva fino a 25 cm ed è per questo motivo che è stato chiesto al governo americano il permesso di vendere queste fotografie con questa risoluzione a tutto il mondo, a qualsiasi cliente, ed è stato dato il permesso a questa società. Comunque, tornando all'acquisizione di Google di Skybox Imaging, allora, questa società sicuramente servirà a incrementare il numero e soprattutto la risoluzione e chissà che cos'altro del servizio Google Maps. La società ha previsto una costellazione di 24 satelliti. Per il momento siamo solo agli inizi, perché il primo satellite, lo SkySat 1, è stato lanciato in novembre, mentre il lancio dello SkySat 2 è in programma per il 28 giugno da Baikonur in Kazakistan con un razzo Soyuz. Quindi da qui ad arrivare a 24 ce ne vuole del tempo e anche del denaro, però sicuramente con l'acquisizione di Google l'accelerazione sarà molto importante. Ma non ci sono solo le immagini ottiche, perché qui stiamo parlando di fotografie, sostanzialmente così come le conosciamo noi, che le facciamo con gli smartphone, con le macchine fotografiche, eccetera eccetera. Ci sono altri tipi di satelliti, ci sono altri tipi di immagini, e con questi altri tipi di immagini si possono fare un sacco di cose. Già oggi con le immagini ottiche, si possono anche fare analisi molto interessanti di quello che accade sulla superficie, che ne so, analisi dei flussi di traffico, controllo di siti industriali, insomma moltissime sono le analisi che si possono fare, ma si può fare anche qualcosa di molto particolare. Saluto Alessandro Ferretti, che è l'amministratore delegato e cofondatore di TRE, che sta per Telerilevamento Europa. Benvenuto 2024. Grazie mille. Alessandro Ferretti, a questo punto dico, era un professore del Politecnico di Milano. Un ricercatore del Politecnico di Milano, e dal Politecnico di Milano nel 2000 è nato il primo spin-off, che appunto si è chiamato TRE, Telerilevamento Europa. Mi piace pronunciare il vostro, si dice in gergo pubblicitario, payoff, lo slogan Sensing the Planet, perché voi che cosa fate con i dati che arrivano da alcuni satelliti? Innanzitutto utilizziamo un certo tipo di dati satellitari, che sono i dati radar, e che sono un po' misteriosi, perché noi siamo abituati su Google Maps, Google Earth, a vedere queste immagini bellissime ad alta risoluzione, che sono date ottico, un dato ottico quindi molto simile a quanto uno può fare con una macchina fotografica. Il radar è qualcosa di più misterioso, perché diciamo adotta e utilizza una banda di frequenze che sono completamente diverse. Le lunghezze d'onda sono di qualche centimetro, ecco. E quindi Fa delle fotografie. Sì, di fatto sono delle fotografie in bianco e nero, sì, un po' difficili da diciamo interpretare per i non addetti ai lavori, ma che pian piano stanno diventando, devo dire, sempre più semplici. Sì, poi parleremo di questa tecnologia, che è molto interessante, nella quale tra l'altro noi italiani e europei siamo molto bravi. Che cosa ci fate con questi dati, con queste immagini che vi arrivano dai satelliti radar? Ma di fatto il radar misura di distanze, quindi dall'antenna a un oggetto al suolo noi possiamo ripetutamente, a tempi diversi, confrontare la distanza, e quindi di fatto possiamo, andando proprio a confrontare questi dati, mettere in luce possibili deformazioni del terreno, per esempio una frana, per esempio una zona o un vulcano che si sta gonfiando, una faglia sismica attiva. E c'è tutta una serie di fenomeni. Tutto quello che si muove sulla Terra lo misurate. Ecco, praticamente e, sì. E quanto precisi riuscite ad essere? Ecco, quello che è impressionante è che con tecniche di interferometria, che sono state messe proprio, diciamo, hanno raggiunto la maturità grazie al gruppo del Politecnico di Milano alla fine degli anni 90, si riesce ad arrivare al millimetro. Voi con una cosa che arriva dal satellite sì, riuscite a dirmi se un terreno o qualsiasi altra cosa si è spostata di un millimetro? Diciamo che questa tecnologia è applicabile non dappertutto, dipende fortemente anche dal tipo di vegetazione. Certo. Funziona molto bene nelle zone urbane, dovunque abbiamo per esempio degli edifici, dei manufatti, e anche dove abbiamo per esempio delle rocce esposte. Ecco. Perché? Perché andiamo... Certo, ci sono degli alberi, ci sono le foglie che si muovono, esatto, un po' più complicato. Andare a vedere un millimetro sull'albero è un po' complicato. Voi avete brevettato tutto ciò. Sì. E avete creato questa azienda. E quanti siete oggi? Oggi siamo 35 persone in Italia e 10 a Vancouver, in Canada, dove abbiamo creato TRE Canada, che è una nostra, diciamo, filiale 100% TRE Italia. Poi torneremo a parlare di quello che fate, perché da un lato è affascinante, è molto interessante, è anche un business molto interessante. Però, visto che stiamo parlando di satelliti, abbiamo detto che dai satelliti arrivano un sacco di dati, un sacco di informazioni, alcune le possono guardare, studiare solo i militari, gli stati, perché sono satelliti segreti militari, famosi satelliti spia, certo, ma sono sempre più i satelliti commerciali, quindi sì, che danno dati sia per il mondo della ricerca, ma anche per qualsiasi altra cosa. Sono centinaia o migliaia satelliti oggi? Ma, se mettiamo insieme tutto, anche quelli delle telecomunicazioni, sicuramente andiamo sulle migliaia. Quindi ci sono quattro grandi famiglie, satelliti per le telecomunicazioni, dei quali appunto anche Radio 24 usufruisce. Esatto. Poi tutte le televisioni e anche appunto le radio distribuiscono, certo, il segnale. Con la... In generale qualsiasi tipo di comunicazione di segnale. Lo dico per gli ascoltatori che credono che si possa ricevere a Radio 24 mettendo una parabola, il segnale che noi utilizziamo per Radio 24 lo usiamo per distribuire il segnale alle nostre antenne. Non è che... Esatto, non è, diciamo, però, broadcast. Non è come Sky che uno lo riceve direttamente con la parabola. Comunque, diciamo, oltre alla telecomunicazione, poi abbiamo i satelliti ottici che abbiamo citato prima, quindi sono di fatto dei satelliti che montano delle bellissime macchine fotografiche, ecco, simili a quanto abbiamo in uno smartphone, però diciamo con risoluzione decisamente diversa, e che operano, che possono operare anche su frequenze anche un po' diverse, tipo l'infrarosso o l'ultravioletto. Dopodiché abbiamo i satelliti radar e poi c'è tutto il mondo dei satelliti meteo, che sono quelli che forse conosciamo meglio, perché quando andiamo a vedere le famose le previsioni del tempo fanno vedere sempre sì, una sì, bella immagine. Quelli siamo molto abituati, esatto, ecco. Esatto. Diciamo che la differenza, la cosa bella del satellite radar è che proprio quelle nuvole che noi vediamo in quei filmati e quelle animazioni del meteo forecast, diciamo, non ci sono, non sono visibili, perché diciamo nelle microonde si riesce ad andare al di là e vedere sempre qualcosa anche oltre la coltre nuvolosa. Infatti, i grandi tifosi del satellite radar chi sono? Ma allora, sicuramente i canadesi, diciamo, ovunque ci sono problemi di copertura nuvolosa, sì, per ma soprattutto per i militari. Però sicuramente sono i militari, perché il satellite, in generale il radar è cominciato, lo sappiamo tutti, con diciamo il discorso famoso dell'attacco tedesco in Inghilterra, e quindi tentativi da parte degli inglesi di mettere a punto un sistema che potesse permettere di vedere quando questi cacciabombardieri stavano per arrivare in territorio, e la battaglia di Londra, insomma, ecco. Beh, lo sappiamo tutti per modo di dire. Per modo di dire. Però diciamo tutto parte da lì. Ahimè, il radar è molto legato al settore militare, l'intelligence and security. La nostra sfida a partire, diciamo, dalla fine degli anni 90 fu proprio quella al Politecnico di lavorare caparbiamente per mettere a punto, diciamo, tecnologie che potessero invece avere dei risvolti civili, diciamo, nell'applicazione, per esempio, di protezione civile, per il monitoraggio delle zone instabili, e per esempio, perché no, anche nel monitoraggio di zone urbane, dove per esempio i lavori di tunneling, quindi di scavo per una nuova linea metropolitana, potrebbero innescare movimenti su palazzi, eccetera. Quindi sono tecnologie nuove che adesso permettono a pubbliche amministrazioni, in questo momento diciamo a grandi gruppi, di avere un quadro sinottico su una certa area e mettere in luce un pochettino cosa succede. Noi, è vero che noi italiani, io no, diciamo, però ci sono gruppi a Politecnico di Milano, ma non solo a Politecnico di Milano, siamo particolarmente bravi su questa tecnologia, abbiamo anche contribuita alla costruzione di satelliti radar, quindi conferma? Assolutamente. Cioè, diciamo che noi non siamo secondi, penso, a nessuno. Abbiamo come Europa in generale una grossa scuola sul radar, in particolare Italia e Germania, ma anche gli spagnoli, e adesso stanno arrivando anche inglesi, francesi, ma in generale l'Europa è all'avanguardia in questo. Devo dire, gli Stati Uniti sono rimasti forse uno step indietro, semplicemente perché questa è stata una scelta più politica che altro, non degli scienziati, avendo visto i primi risultati, diciamo che è stato immediatamente portato il mondo radar nella sfera militare del Dipartimento della Difesa. E quindi segreto. E quindi di fatto diciamo che tutti sanno che ci sono questi satelliti, ma per applicazioni civili gli stessi scienziati, diciamo, tecnici americani devono poi invece chiederli agli europei. È incredibile. È incredibile, ma è così, oggi è proprio così. Perché la tecnologia in America la sviluppano i militari. Diciamo sostanzialmente, sì, dove c'è un'applicazione, diciamo, nel nostro settore del surface deformation, posso fare due esempi. Surface deformation è deformazione della superficie. Esattamente. Terra, allora, applicazione militare, si possono anche pensare, no, in maniera molto semplice: se tu mi riesci a vedere millimetri da 780 km di altezza, senza strumentare niente al suolo, uno può andare per esempio a identificare possibili bunker costruiti in certe aree. E tra l'altro vengono utilizzati i dati radar satellitari anche per vedere un attimino chi fa, ahimè, i test nucleari, qual è la potenza della bomba che, diciamo... Ah, quindi se fai un test sotterraneo ti beccano subito. Diciamo, ovviamente c'è anche tutta la rete dei sismologi, no? Perché ovviamente viene a crearsi un terremoto di fatto, chiaro. Facendo scoppiare una bomba. Questo è molto interessante, questo tipo di tecnologia. Satelliti non sono geostazionari, sono satelliti che orbitano, hanno un'orbita quasi polare, quindi potete immaginare che questo satellite compia un giro quasi parallelo ai nostri meridiani terrestri. Sì, quante volte? Allora fa 7-8 orbite diciamo al giorno, quindi è veloce, cioè si muove a circa 7 chilometri al secondo questo oggetto. E la cosa fantastica è pensare che un oggetto che si muove a circa 800 chilometri di altezza, a 7 chilometri al secondo, mi va a vedere il millimetro di spostamento su Piazza del Duomo a Milano. Questo è abbastanza impressionante. Esatto, fa impressione. E quanto frequenti sono i dati che riuscite a ottenere con questi satelliti? Allora, diciamo, dipende dal satellite. Perché lui gira, ma anche la Terra gira. Quindi... Esatto. Diciamo che quello che viene chiamato il ciclo di rivisitazione, cioè quante volte l'anno passa su Milano, questo dipende dal sensore. In passato era 35 giorni con i satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea, questo ciclo. Invece adesso sta scendendo con i satelliti Cosmo a pochi giorni. Quindi, Cosmo SkyMed, esatto, sono italiani. Che è la costellazione radar italiana, che è bello dire, è la più potente al mondo. Questo purtroppo non tutti lo sanno, anche perché diciamo il radar è ancora qualcosa un po' appunto di misterioso. Lo stesso costellazione Cosmo SkyMed è una costellazione duale, e quindi ci sono stati sia i fondi del Ministero della Difesa sia quelli diciamo di Protezione Civile e Ministero dell'Ambiente. Sì, è una tecnologia che usano appunto sia i militari che lo Stato italiano, e i dati potete utilizzarli anche voi. Esattamente, sì. Quindi, ad esempio, Cosmo SkyMed da quanto è frequente? Allora, con 4 satelliti si riesce in media ad avere un dato ogni 4 giorni. Quindi rispetto ai 35 giorni di attesa di tanti. Quindi si è sempre più precisi per valutare questi spostamenti sulla Terra. Si riesce a monitorare sempre di più. Sì. E Sentinel, perché sappiamo, ne abbiamo parlato anche 2024, recentemente è stato lanciato il primo di una serie di 7 satelliti che si chiamano Sentinel dell'Agenzia Spaziale Europea, finanziati appunto dall'Unione Europea, che il primo è radar, giusto? Esattamente. Questo è ancora più frequente? Diciamo, il ciclo di Sentinel è 12 giorni, con il suo gemello Sentinel-1B, che verrà lanciato nel 2015, dovremmo arrivare ai 6 giorni, quindi praticamente ogni settimana uno ha un nuovo dato vedere. Sì. Che poi in realtà ci sono, senza entrare in dettagli, orbite diverse, quindi in realtà già con queste due sentinelle avremo dati, per esempio su Milano, ogni 3 giorni di fatto, perché c'è una doppia geometria. Vabbè, non entriamo nel dettaglio. Quindi, però il trend è chiaro, no? Si va verso un dato quotidiano quasi. Ci sono satelliti anche di altri paesi i cui dati si possono comprare? Poi mi dice anche se questi dati comprano e chi li può prendere. Allora, tutti coloro che vogliono acquistare un'immagine satellitare lo possono fare. Diciamo, i problemi di intelligence security e diciamo di permesso, cosiddetta clearance, ci sono per specifiche diciamo risoluzioni spaziali che possono diciamo portare a applicazioni diverse. Okay. Però diciamo quelle civili, senza pretese direi, anche se arriviamo lo stesso a precisioni notevolissime, praticamente chiunque può acquistare il dato. Che però stiamo parlando di immagini che costano nell'ordine delle migliaia di euro. Sicuramente. Abbiamo il satellite canadese, RadarSat 2, ad oggi è stato appena lanciato, è stato menzionato Sentinel, è stato appena lanciato dai giapponesi un altro satellite radar, Alos Pulsar. E questo, diciamo, insieme a Cosmo SkyMed e a 2 satelliti tedeschi, è un po' lo scenario commerciale. Diciamo così. È un business questo per chi fa i satelliti? Cioè, mi spiego, visto che voi utilizzate, poi entriamo nel dettaglio di quello che fate in modo più preciso, facciamo anche alcuni esempi, voi siete un'azienda che fa business su questi dati, altre aziende fanno altri tipi di business sui dati satellitari. Sappiamo che nel mondo delle immagini, non solo Google Maps, ma ci sono un sacco di immagini di qualsiasi altro genere, ci sono aziende americane che hanno lanciato satelliti e ci fanno business. Nel mondo dei radar? Allora già nel... Senza farlo troppo complicata. Sì, è un mondo molto particolare e nuovo, direi. Mm. Sicuramente ha aumentato il business. Per quanto riguarda lo spazio, però, in grande misura tutto è legato, diciamo, a commesse principe che sono ancora, ahimè, intelligence and security, perché anche chi ha, ci sono imprese che ovviamente diciamo non menzioniamo, però vivono di immagini satellitari ad alta risoluzione, che poi vediamo per esempio in Google Maps, per dirne una, però in realtà se non ci fosse stato il finanziamento iniziale dello Stato o dei militari non ci potrebbe essere. Esatto, è un business plan che difficilmente in questo momento sta in piedi. Perché? Perché i costi di lancio, di assicurazione, di sviluppo erano tali che fare un business plan su 300-400-500 milioni. Questo è interessante perché ci dice, poi non entriamo nel dibattito perché sarebbe troppo ampio, troppo lungo, che le spese militari non sono sempre spese che producono guerre, ma sono anche spese che servono per altri tipi di servizi cosiddetto commerciali. Follow. Questo vale in generale per lo spazio, ma vale anche insomma per tanti altri settori. Quindi insomma bisogna ragionare e avere una strategia anche su questo. Anche se personalmente, questo è assolutamente un giudizio personale, ritengo che nell'arco dei prossimi 10 anni si arriverà alle prime missioni full commercial, quindi completamente basate su un business plan. Uno spende nell'ottica ovviamente di una riduzione dei costi di lancio, e anche per fare fisicamente il sensore che metti sul satellite, puoi fare dei business plan sotto i 100 milioni di euro e quindi già comincia a essere più fattibile. La cosa anche un po' particolare del nostro settore è che gran parte della tecnologia, per esempio per questa deformazione del terreno, è stata sviluppata da piccole e medie imprese europee in particolare. E la piccola impresa è difficile che fa un business plan da 500 milioni. Insomma. Allora, tornando alla deformazione del terreno, lei ci ha detto che appunto fino a un millimetro, ma facciamo degli esempi di possibili applicazioni, cioè che cosa ve ne fate dei dati e soprattutto a chi li vendete, chi è che utilizza questi dati? Allora, sicuramente in questo momento noi vendiamo molto al settore petrolifero, quindi al settore oil and gas. Perché? Perché di fatto quando si fa la coltivazione del giacimento vuol dire che noi andiamo a pompare greggio o gas, ok? Se faccio questo, di fatto vado a modificare la pressione del giacimento. Allora 9 su 10 si può innescare anche una compattazione del terreno proprio dove sono andato a drenare greggio o gas. Quindi praticamente l'idea di base è molto semplice: io vado a vedere come si deforma il terreno dove ho i miei pozzi. Dalla forma di questa deformazione posso capire come, dove sto prendendo il greggio, dove eventualmente posso fare nuovi pozzi e dove ho dei pozzi che in realtà non sono nella posizione giusta. Ecco. Cosa che in alternativa come si dovrebbe fare? È molto complicato. Oppure non fare. Diciamo che ho sempre il problema a dire che questa tecnologia è in competizione con un'altra. C'è la cosiddetta, le prospezioni sismiche, che sono quelle utilizzate, che adesso sono portate verso il 4D, che vuol dire di fatto farlo a distanza di tempo e vedere i cambiamenti, come si muove laggiù, o meglio dove ho preso anche il petrolio e dove ce n'è ancora. Questo però ha dei costi enormemente più elevati di quello che fa diciamo un'analisi satellitare. Ovviamente noi non pretendiamo di dare tutte le informazioni che può dare una sismica. Le due cose sono non sono in competizione, ma possono essere, anzi io le vedo anzi molto complementari. Però la cosa bella, quando ci siamo visti, mi ha raccontato un po' quello che fate, è che mentre le tecnologie che vengono utilizzate oggi, ad esempio quelle della creazione di un sisma finto, di un piccolo terremoto finto per capire le onde come si muovono, ecco, mentre in quel caso devi andare dove ci sono i pozzi, che normalmente non sono proprio in posti agevoli, voi fate tutto da Milano. Sì, che non è male. Noi lavoriamo adesso tanto, diciamo, anche col Medio Oriente. Prendete i dati dai satelliti e fate tutto da esatto. qua. E questo sicuramente ti apre tantissimo le frontiere. Io mi sento molto fortunato a lavorare in un settore dove diciamo chi fa qualcosa di fisico, non so, calzaturificio in Brianza, per fare internazionalizzazione d'impresa, che adesso è assolutamente un must, fa fatica. Ok, il satellite per certi versi nasce come globale. Sì, sì. Cioè, noi possiamo prendere il dato di Tokyo, come lavorare appunto per i colleghi canadesi in Alberta, e poi vedere come si muove la California del Sud. Voi lavorate molto con l'estero? Sì, lavoriamo tanto, diciamo sicuramente Trecanada è 100% sulle Americhe, America del Sud e Nord, come Trenitalia lavoriamo anche tanto con l'Italia, per carità. Anche perché nel settore petrolifero siamo ancora uno dei grandi paesi. Che cos'altro fate oltre al settore petrolifero per vedere come si muovono i pozzi? Allora, ci sono poi sicuramente il settore minerario, che è un settore che stiamo adesso sondando ed è molto molto promettente, perché soprattutto nelle miniere cosiddette open pit, quindi a cielo aperto, lì c'è necessità per la sicurezza delle persone che lavorano lì di monitorare i movimenti, perché ahimè purtroppo molto spesso ci sono frane che coinvolgono personale. Oltre al settore minerario poi c'è il settore delle infrastrutture, che è il monitoraggio di fatto delle grandi opere. Ecco, voi immaginate il raddoppio della Bologna-Firenze, piuttosto che grandi opere come la nuova stazione per l'alta velocità a Bologna. Ecco, sono tutte che sotterranee, ricordiamo. Esatto. E in questo caso i dati satellitari sono stati utilizzati in sinergia con ovviamente monitoraggio al suolo, a terra, per cercare proprio di avere sotto controllo completamente quello che si sta facendo. Quindi voi calcolate i movimenti e naturalmente fornite anche una mappa, una traccia di come si sta muovendo un determinato terreno o un edificio, perché nel caso, che ne so, di un'opera che di una metropolitana che fora il terreno sotto una città, bisogna anche vedere. Esatto, cioè sicuramente non è soltanto una mappa statica quello che andiamo a creare, a generare. C'è una serie sicuramente di punti, che noi sono i nostri smarties, i nostri punti colorati, che andiamo a sovrapporre di solito a una fotografia, a un'immagine ottica, perché poi le persone sono più abituate all'immagine ottica, quelle che vediamo su Google Maps. Sopra mettiamo i nostri bersagli radar, che ripeto non abbiamo dovuto mettere fisicamente al suolo, ma l'algoritmica automaticamente va a selezionare degli elementi, per esempio sul tetto di un certo edificio, che guarda caso l'orientamento e il materiale stesso fa sì che sia passibile di questo tipo di monitoraggio. E quindi è bello, perché senza dover mettere niente a terra tu cominci a acquisire questi dati e poi cominci a delineare una famiglia di punti, dove per ogni punto posso raccontarti dalla prima acquisizione all'ultima, magari di ieri sera, come si è mosso il palazzo. E questo è abbastanza affascinante. Diciamo che sarebbe anche interessante se questi dati fossero pubblici, però questo diventa un po' complicato. Sì. Che io vado a vedere sulla mappa e dico, cavolo, casa mia si è mossa di 3 millimetri, che forse sono pochi o non so, sono molti. Sì, questo diciamo è sempre stato un po' il nostro target, arrivare poi a quasi al mercato consumer, no? Di una tecnologia che su cui hai lavorato, capisci, provi giustamente prima a proporlo a livello di pubblica amministrazione, e così abbiamo fatto, anche crearle una rete internazionale, e poi scendere, vai sulla grande impresa, piccola media impresa magari, poi il cittadino, e poi certo il next step, come si dice, sarebbe. Cioè, è una cosa che si può fare o è complicato? Allora, è complicato perché sicuramente sono misure di spostamento e in quanto tali vanno sempre interpretate. Faccio un esempio: se questo palazzo dove diciamo stiamo parlando oggi si stesse muovendo di 3 mm l'anno, perché andiamo a fare questo genere di misure, benissimo. Se poi tutto il quartiere si sta muovendo di 3 mm l'anno, Non c'è nessun problema. Ok, non è una cosa grave. Noi abbiamo notato che l'interpretazione del dato può innescare allarmi certe volte ingiustificate. Quindi diciamo che il dato è meglio che lo trattino degli esperti. Esatto. Questo è il succo. Perché l'ingegnere strutturista può dire se il palazzo sta in piedi o no, o se ha problemi, ma il dato in quanto tale può anche essere, diciamo, abbastanza pericoloso. Ci sono altre aziende nel mondo che fanno questo? Allora, siamo... Perché voi avete brevettato questa tecnologia e da informazioni che io ho raccolto siete, diciamo... No, siamo messi bene. Al top al mondo. Sì, diciamo che come, certe volte faccio questo esempio, come la settimana enigmistica, diciamo, vantiamo moltissime imitazioni. Perché una volta fatto un brevetto tecnico, l'ho imparato, diciamo, sulla mia pelle, e anche con i soci ogni tanto commentiamo, che di fatto... in pochi anni poi ti cambiano un epsilon e poi diventa molto difficile proteggere il brevetto. Quindi il brevetto è una bandiera molto importante che hai per dimostrare a un cliente che tu quella cosa lì l'avevi fatta nel 99, nel nostro caso. Adesso poi abbiamo fatto brevetti di perfezionamento. Però di fatto, secondo me, in un momento come questo di cambiamento globale e di grande concorrenza, l'unica cosa da fare è correre, sempre correre avanti, cioè non fermarsi nella ricerca e sviluppo, perché se ti quindi fermi... c'è qualcuno nel mondo che comunque ci prova. Sì, siamo 5-6, di questo parliamo, siamo ancora pochissimi, ma con Sentinel, secondo me, questo darà una grande spinta anche all'utilizzo del dato radar, e quindi è naturale che avremo più, diciamo, concorrenti in Cina, India, cioè tutto l'ambiente. Sì, certo, è normale che sia così. A proposito di altre applicazioni possibili di questa tecnologia. Allora, sicuramente quello che citavamo prima, voglio cambiare casa, voglio vedere questa zona di Roma com'è. Secondo me è molto affascinante e prima o poi magari all'interno di diciamo analisi svolte dal grosse società immobiliari o magari società di ingegneria che insieme a noi si mettono a fare, diciamo, un servizio di questo tipo, perché bisogna poi spiegarlo in maniera semplice. Chiaro. Alla persona, sì, alla fine io devo sapere se quel palazzo lì davvero ha problemi strutturali o no. Ecco, o anche per chi fa grossi investimenti immobiliari. Questo qui è sicuramente un settore di interesse. Poi, diciamo, il futuro c'è anche quello legato alla sismica, cioè ogni volta che c'è un terremoto è ovvio che c'è deformazione del terreno. Sì. E quindi ad oggi questa tecnologia è utilizzata dopo che è avvenuto il terremoto, non so, c'è stato il terremoto all'Aquila, c'è stato il terremoto in Emilia Romagna, abbiamo fatto le analisi per mettere in evidenza come si era deformato il terreno. La sfida qual è? Vedere se dall'analisi del dato pre-sismico non si può, insieme ovviamente, perché è un discorso molto complesso, multidisciplinare, dare degli elementi per cercare di capire se si può fare l'early warning, sappiamo che è un po' difficile, tipo il sacro graal della sismologia. Però noi siamo convinti che degli elementi in più ai sismologi si possono passare. Sulle frane oggi si sta facendo qualche cosa, cioè le istituzioni che dovrebbero controllare come si muove il terreno in Italia, visto che sappiamo, insomma, che è uno dei grandi problemi del nostro territorio, si usano questi dati o non ancora? Allora, si cominciano a usare, direi. È vero che è stato finanziato da parte del Ministero dell'Ambiente l'analisi di tutto il dato acquisito dai satelliti dell'Agenzia Spaziale Europea sull'Italia dal 1992 praticamente sino al 2009-2010. Molto ancora si può fare, quello era semplicemente... Allora, diciamo, la tecnologia permetterebbe di dire... guardate che ne so, un piccolo paese di montagna o un grande paese di montagna, dico, guardate che c'è una frana e che si sta muovendo in modo abbastanza sospetto. Diciamo, questo sì, per poi andare a strumentare a terra, perché non è sostitutivo poi della strumentazione a terra. Questo discorso l'abbiamo fatto con tanti colleghi anche che, per esempio, si occupano di GPS, no? Il GPS ti dà un dato in continua. Noi con il satellite comunque abbiamo un dato ogni 4 giorni, ogni settimana, di questo parliamo. Sì. E certe volte non è sufficiente. Quindi il cosiddetto screening del territorio su migliaia di chilometri quadrati lo puoi fare solo con il satellite. Esatto. Che però ti aiuta poi a posizionare i tuoi strumenti per fare davvero l'azione di early warning. Di precisione, diciamo così. Per dire, signori, qui sta venendo giù tutto. Lei ha citato il GPS. La cosa che fate voi non si può fare col GPS. No, perché il concetto è diverso. Il GPS, noi per dirle un numero, su Milano siamo arrivati a mettere in evidenza 1,5 milioni, 1,6 milioni punti di misura. Cosa costerebbe con antenne GPS? Bisognerebbe mettere i sensori dappertutto. E quindi qualche problemino c'è. Esatto. Bene, io ringrazio Alessandro Ferretti per essere stato con noi. Naturalmente buon lavoro e grazie. Ringraziamo anche Ferretti perché a proposito di internazionalizzazione l'abbiamo catturato in uno dei tanti movimenti in giro per il mondo. A presto e buon lavoro. Grazie. Quella che avete sentito è un'intervista in versione integrale, vi abbiamo messo proprio tutto quello che ci siamo detti io e Alessandro Ferretti, l'amministratore delegato di 3 Italia. Io sono un appassionato un po' patito di satelliti e di spazio, quindi quando trovo una persona che mi racconta tante cose affascinanti preferisco raccontare tutto, quindi metterlo a disposizione anche dei nostri ascoltatori. Questa effettivamente è una bella intervista lunga, vi invito a mandare le vostre considerazioni e le vostre riflessioni al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Il bello del podcast è che si può fare skip e andare un po' avanti rispetto a quello che si sta ascoltando. Dunque, adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di privacy e internet, privacy digitale. È un argomento di cui si discute, soprattutto gli addetti ai lavori discutono in modo assiduo sempre, tutto l'anno. Ogni tanto ci sono notizie che ci fanno parlare di questo argomento. Questa settimana ci sono state, direi, un paio di ricerche, di indagini. Poi anche il Garante per la Privacy ha tenuto la sua relazione annuale, ha lanciato un nuovo allarme sulla quantità di informazioni che hanno in pancia i colossi della rete internet, una cosa che diciamo ormai da 5-6 anni, anche il Garante della Privacy lo dice da 5-6 anni o comunque forse da più tempo, ma la cosa importante è che lo dica davanti al Parlamento, perché probabilmente ci sono alcune cose che a livello europeo debbono essere fatte per modellare le leggi rispetto ai nuovi tempi che stiamo vivendo. Allora, a proposito di ricerche che sono uscite questa settimana, una è stata presentata a State of the Net, che si è tenuta a Trieste. Alla domanda, ci sono un sacco di dati, però riassumendo forse la slide più interessante, riguarda questa domanda che è stata fatta a una base di popolazione sopra i 18 anni, che dice: come ti senti di fronte alla possibilità che qualcuno possa accedere ai dati che hai sullo smartphone o sul computer? Qui non si parla solo di privacy, ma si parla anche di accesso illegale ai dati. Comunque il 33% dice: me ne frega niente, perché sono cose poco importanti, poco interessanti. E questa è una domanda, è una risposta che sento dire spesso. Purtroppo anche mettendo a fianco alcuni dati che possono apparire poco interessanti, si scoprono cose molto interessanti, e la correlazione di questi dati può dare delle informazioni su noi stessi che forse sorprenderebbero anche noi. Comunque questo 33% dice: non me ne frega niente. Invece il 36% dice: sono preoccupato, molto preoccupato. Il 20% è impaurito, li metterei assieme, quindi più del 50% delle persone, quasi un 60% delle persone è preoccupato di questo. Altri dati sono emersi da una ricerca che è stata realizzata su 15.000 consumatori in 15 paesi del mondo da EMC, che è un'azienda americana gigantesca che si occupa di tecnologia per la protezione dei dati, per la distribuzione dei dati, per lo storage dei dati. Allora, alcune evidenze riguardo all'Italia. Il 29% del campione intervistato, ma a livello globale è il 27%, quindi cambia poco, dichiara di essere disposto a sacrificare i propri livelli di privacy per poter usufruire di tutti i vantaggi della rete, delle tecnologie online. Quindi solo meno di un terzo, è 29%. Il 41%, è giusto dire solo il 41% degli intervistati, cambia regolarmente le proprie password. Quasi un utente su tre dichiara di non avere una password per i propri dispositivi mobili, quindi il tablet, lo smartphone, eccetera, eccetera, e più di un utente su tre non regola, quando si iscrive su un social network, le proprie impostazioni legate alla privacy. Ora, naturalmente noi mettiamo insieme tante cose perché la privacy ha tante sfaccettature. C'è quella delle informazioni che noi mettiamo in rete e siamo consapevoli di metterle in rete, e dell'uso che poi queste informazioni ne fanno le società che registrano i nostri dati. Poi c'è tutto il capitolo dell'accesso fraudolento ai nostri dati, che certo, se sono chiusi in un posto offline, sono più sicuri? Non lo so, forse sono sicuri in un altro modo, perché ci possono essere rubati in un altro sistema. Conosco persone, ma io stesso, che quando buttano via la posta, dove ci sono le bollette, vabbè, io ormai le chiedo tutte digitali, ma molte volte arrivano delle informazioni via carta che vengono buttate senza far nulla. Lì ci sono delle informazioni piuttosto importanti. Se qualcuno si mette a guardare quelle informazioni, anche se sono offline, sono piuttosto pericolosi i dati che noi mettiamo in giro. Comunque, che siano offline, che siano online, poco cambia. Comunque vanno utilizzate delle precauzioni di tipo diverso. Altri dati che emergono da questa ricerca: il 62% non modifica le proprie password con regolarità. Il 39% non protegge i propri dispositivi mobili con password. Sono dati rispetto alle risposte che abbiamo dato prima. Per il campione intervistato, i principali rischi che riguardano il futuro della privacy sono da imputare alle aziende che usano, vendono o scambiano dati finanziari a scopo di lucro, dall'assenza di attenzione da parte dei governi, e pochissimi dicono le possibili violazioni sono colpa mia, perché non ho utilizzato le precauzioni. Cioè, mi verrebbe da dire, tutti chiudiamo a chiave la casa, su internet e con i nostri smartphone siamo molto meno bravi a proteggere le informazioni, ma la colpa non è nostra. Traduzione forse troppo sintetica, ma questa potrebbe essere una delle traduzioni. Bene, questa ricerca, dicevo, è stata presentata da EMC. Marco Fanizzi è l'amministratore delegato di EMC Italia, scritto EMC. Benvenuto a 2024. Grazie mille e buongiorno a tutti. Prima di tutto, per quale motivo avete fatto una ricerca sulla privacy? Voi vi occupate, poi magari ne parliamo in breve, molto di dati che vengono generati nelle aziende, in rete, eccetera, eccetera. Perché occuparsi di privacy? È un momento particolarmente importante da questo punto di vista. Pensiamo che l'esplosione dei dati digitali, tutto quello che sta succedendo a livello mondiale, ci sono alcuni casi di utilizzo di dati personali, diciamo, non nella maniera corretta. Pensiamo che rendere aware, quindi rendere consapevoli le persone, i cittadini e le aziende del corretto utilizzo dei dati sia comunque anche una nostra responsabilità, anche se non è il focus del nostro business. Sì, voi che cosa fate? Di cosa vi occupate? Ma noi facciamo... Siete un'azienda gigantesca. Un'azienda gigante, siamo un'azienda americana di Boston, siamo un'azienda da 75.000 dipendenti e circa 25 miliardi di dollari di fatturato all'anno, e ci occupiamo di gestire... rendere sicure, rendere disponibili nel momento giusto le informazioni per le aziende enterprise. Quindi tutto ciò che è digitale, tutto ciò che ci circonda, che sia qualcosa che è gestito da una banca, da una telco, è comunque gestito da EMC per un buon 33-34%. A proposito di dati, leggo una cosa che avete detto questa settimana, ma anche recentemente, che sono numeri difficili da comprendere, ma che danno un'idea: che tra l'anno scorso al 2020 i dati generati passeranno da 4,4 trilioni di gigabyte a 44 milioni. Quindi stiamo producendo un sacco di dati. Questi dati, giusto per far capire, chi li produce? Non solo noi con le nostre fotografie, video e social network. Ma in realtà ci sono appunto due forti produttori di dati, ma ci sono dati nuovi che stanno nascendo. Cercherò di fare qualche esempio. Nel nostro piccolo produciamo in percentuale tantissimi dati rispetto al passato. Guardiamo la nostra casa, guardiamo i nostri strumenti che utilizziamo normalmente per il lavoro, guardiamo i nativi digitali, i nostri figli già a 11, 12, 13 anni iniziano a produrre dati. Poi cioè, ogni volta che facciamo una telefonata, facciamo una fotografia con lo smartphone, navighiamo in rete, eccetera, eccetera, produciamo dei dati che da qualche parte vengono salvati. Certo, perché i dati alla fine servono a noi per il nostro utilizzo personale e alle aziende a cui ci appoggiamo per la nostra sicurezza e per la certificazione che le cose vengano fatte bene, perché comunque insomma conosciamo tutti il fatto che le telefonate, secondo le normative, in questo caso della legge italiana, possono essere comunque archiviate e tenute per anni. Ci sono tutta una serie di politiche per cui le cose che facciamo devono essere tracciate. Tutti i nostri conti correnti bancari, tutto ciò che noi facciamo con la nostra banca viene tracciato, archiviato e lasciato lì per una serie di anni per l'utilizzo da parte o degli organismi competenti o di noi privati cittadini. Quindi questi sono dati, diciamo, che normalmente venivano generati e vengono generati adesso sempre maggiormente. Noi come privati cittadini siamo sempre più utilizzatori attraverso i social, attraverso il meccanismo che ci permette attraverso i nostri smartphone di generare nuovi dati, ma stanno anche nascendo dati nuovi, dati interessanti nuovi. C'era giusto quella scorsa settimana su un famoso settimanale americano il fatto che la Monsanto sta utilizzando dei dati relativi al territorio americano per decidere come seminare, dove seminare, come attraverso il sistema di geolocalizzazione decidere come seminare un campo, dove crescerà di più, dove crescerà di meno. Cioè i dati stanno trasformando il modo di fare business, stanno trasformando il modo di andare verso la clientela, anche perché i canali per andare verso i clienti finali stanno diventando molteplici. Quelle che per noi sono delle apps sul nostro smartphone o all'interno della nostra azienda, in realtà sono dei canali diretti dal mondo business, dal mondo enterprise, verso di noi come persone private, verso di noi come aziende. Infatti uno dei grandi business già di oggi, ma sempre più del futuro, sarà quello di essere capaci di generare nuovi dati, perché poi con i dati sono un valore molto importante, ma soprattutto analizzare i dati per capire che cosa farci, e quelli che sono bravi faranno grande successo nel futuro. Voi però tutto questo lo analizzate sotto l'aspetto della privacy. Che cosa, alcune evidenze che sono nate da questa ricerca che avete fatto in tutto il mondo? Ma intanto, prima di tutto, diciamo, noi abbiamo proprio fatto una ricerca per quanto riguarda la privacy del dato e non la sicurezza del dato, che ha tutti altri aspetti. La privacy del dato, abbiamo fatto questa analisi, l'abbiamo fatta su circa 15.000 consumatori in 15 paesi, prendendo tra l'altro a campione delle persone di tipologia diversa. Quindi abbiamo preso delle persone, abbiamo identificato sei, diciamo, tipologie diverse. Cioè, avete fatto un'analisi? Abbiamo fatto un'analisi seria, insomma, come si deve, insomma, su 15.000 consumatori. Viene fuori che alla fine pochi, o comunque non in altissima percentuale, le persone sono disposte a cambiare, diciamo, a contrattare la propria capacità di accedere al mondo digitale con la propria privacy. Ma la contraddizione più grande è che, nonostante questo, in realtà le persone poco sanno di quello che fanno in rete, poco si preoccupano del fatto che un contratto, quando firmano, decidono di fare un download, che il contratto è lungo 20 pagine, quindi normalmente, siccome hanno fretta, cliccano velocemente 3-4 bottoni e dicono sì sì, accetto tutto, dammi quello che mi serve. Poco si occupano, per esempio, di bloccare, mi verrebbe, ma in realtà custodire il proprio telefonino, il proprio PC con una password che abbia anche insomma un certo valore, nel senso che comunque ci sono, che non sia 111, sì, o che non sia il nome, non ce l'ho, oppure quindi, sia il proprio nome, eccetera eccetera. Quindi alla fine è questo in realtà c'è un po' di contraddizione su questo trade-in, perché in realtà tutti vorrebbero essere sicuri, tutti vorrebbero avere le proprie informazioni private sicure, ma hanno un comportamento completamente all'opposto, anche nell'utilizzo dei social, per esempio. Molte persone non si rendono conto che le informazioni date su un social possono creare dei problemi. Se io dichiaro apertamente su e non ho profilato correttamente il mio profilo su Facebook, su Twitter o su quello che utilizzo come social, se non ho profilato correttamente il mio account e dichiaro che per 2 settimane sarò dall'altra parte del mondo e ho dichiarato 2 settimane prima dove abito, eccetera, eccetera, eccetera, mettendo insieme tutti i puntini. Se sono un bravo ladro, la mia casa magari è un po' a rischio, visto che oggi, insomma, molte delle truffe comunque si sono spostate verso il mondo digitale. Questo l'abbiamo detto già in altre occasioni, che alcune assicurazioni negli Stati Uniti, dove il fenomeno è più elevato e più diffuso, si preoccupano anche della nostra interazione con i social network. Magari se siamo troppo diciamo troppe informazioni sui social network, l'assicurazione sul furto in casa ha qualche cosa da dire. Di fronte a tutto ciò, secondo voi che cosa è necessario fare? Cioè, io propongo 3 soluzioni, non so se ce ne sono altre. Maggiore consapevolezza degli utenti, che quindi diventano sempre più bravi e consapevoli di quello che devono fare, però devo dire con uno sforzo che non so quanto possa essere abbracciato. Maggiore utilizzo della tecnologia, non so però come. Maggiore intervento della legge, cosa che a me non piace molto. Prima di rispondere vorrei far notare una cosa. Il sondaggio è stato fatto su persone maggiorenni, quindi dai 18 ai 65 anni su N fasce. Sì. Non abbiamo potuto prendere in considerazione tutti quelli che sono nativi digitali, che hanno una percezione della sicurezza che è ancora più bassa. Cioè non hanno il problema che abbiamo noi. Sì. Quindi già noi siamo un po' laschi, probabilmente i più giovani lo sono ancora di più. Ora, penso che imporlo per legge non sia una cosa corretta, e penso che la tecnologia alla fine esiste, ma va utilizzata. La tecnologia c'è, sono processi, procedure normalmente che mancano. È un po' il motivo per cui abbiamo fatto questo sondaggio, un po' il motivo per cui ne parliamo. Ci vuole awareness, va fatta nelle scuole, va fatta nelle università, va fatto capire alle persone che ci sono cose che possono essere condivise e cose che non possono essere condivise, o che è meglio proteggere, e che c'è sempre un trade-in tra quello che ottengo e quello che do. A livello di persone, di privato cittadino, questo è un aspetto, questo può essere visto anche a livello aziendale. Noi lavoriamo in questo ambito, lavoriamo nell'ambito, oggi parliamo tanto di cloud, noi siamo degli attori del cloud in maniera, diciamo, diversa dagli altri, ma non è questa la discussione da fare oggi. Siamo degli attori del cloud e riteniamo che ci sono cose che debbano andare in cloud pubblico, ci sono delle cose che debbano rimanere nel cloud privato, quindi sotto una certa sicurezza. Quindi non siete dei fanatici del cloud? No, noi non siamo dei fanatici del cloud, riteniamo tra l'altro che l'Italia sia uno dei posti dove la legge sulla privacy sia più avanti in questo momento, sia in Europa che nel mondo. Può sembrare strano, normalmente noi diciamo sempre che, insomma, quando ci guardiamo ci guardiamo sempre male, ma l'Italia è in questo momento all'avanguardia da questo punto di vista, perché abbiamo fatto tanto per il garante. L'altro giorno sono uscite delle notizie pubblicate da Vodafone, che ha detto che, diciamo, noi siamo nel ranking delle intercettazioni, siamo molto alti. In realtà quello che non dice quella affermazione è che è noto che l'Italia è nel ranking una delle nazioni dove si intercetta di più. Perché? Perché da noi, se vuoi fare intercettazione, lo devi chiedere. Ci sono posti dove non lo devi chiedere, e questo non è in Africa o in America, cioè è anche in Europa. Quindi in Italia c'è una legge sulla privacy che è una buona legge sulla privacy. Sì. Un ultimo punto che è importante per i prossimi anni. Nei prossimi anni andranno in rete molte più informazioni, l'abbiamo detto poco fa, quel numero che abbiamo citato è un indicatore importante, ma no, il problema non è solo un problema di quantità, è un problema di qualità. Che cosa succederà nei prossimi anni? Ma possiamo citare ad esempio qualche settore. È noto che l'automotive in questo momento sia uno dei settori più in crescita da questo punto di vista, cioè le informazioni in rete diventano sempre di più. Banalmente la localizzazione GPS di una macchina ai fini della protezione dal furto è una cosa che risale a 5 anni fa. Oggi ci sono strumenti molto più interessanti, tipo la capacità di capire come il guidatore si muove, per poter dare al guidatore la possibilità di risparmiare sul premio assicurativo che paga. È una cosa che, voglio dire, viviamo già oggi. Quindi l'automotive è sicuramente una cosa importante da questo punto di vista, e consideriamo che comunque questo sistema di localizzazione permette a qualcuno di vedere comunque noi dove siamo e come ci comportiamo. Ma la cosa che secondo me è più importante analizzare da questo punto di vista, è che potrebbe essere un fattore determinante di successo, di sviluppo, di competitività, è tutto ciò che riguarda l'healthcare, cioè tutto ciò Quindi la salute. Sì. Noi sappiamo, la salute e la sanità. La salute e la sanità. Sì. Diciamo, noi abbiamo una sfortuna e una fortuna. Allora, abbiamo intanto una sanità che sembra messa tanto male, ma in realtà, insomma, noi abbiamo delle competenze specifiche negli ospedali italiani che in altre nazioni ancora non hanno, solo che a volte non sappiamo vendercela bene, non sappiamo vendercela come l'Inghilterra, che durante la presentazione delle Olimpiadi di qualche anno fa ha fatto vedere proprio il sistema sanitario. Sì. Noi non siamo a quel livello, però io penso che la sfortuna che abbiamo è che da un punto di vista di interconnessione del nostro sistema sanitario nazionale non siamo ancora all'avanguardia. Quindi abbiamo la possibilità, e nell'agenda digitale ci sono una serie di temi su questo, abbiamo la possibilità di partire non da zero ma quasi zero e costruire qualcosa di nuovo. Ecco, però deve essere fatto in un certo modo, deve essere fatto tenendo presente che una base dati molto ampia, quindi parlavamo prima di big data, può essere analizzata a fini bonari, benefici, perché comunque può essere analizzata tramite degli analytics per produrre medicine, per produrre analisi nuove. Bisogna però per fare prevenzione. Però possono esserci anche degli aspetti negativi, e quindi a livello di privacy, avere tutta questa quantità di dati relativi alla privacy e alla salute potrebbe generare dei problemi. Non ultimo possiamo anche citare tutti i dati che noi stessi genereremo, visto che sappiamo tutti che con gli smartphone e con alcune cose che ci indossiamo e si collegano agli smartphone possiamo tracciare le nostre attività vitali, e se queste poi finiscono in rete nel posto sbagliato possono anche in questo caso succedere cose spiacevoli. È esattamente questo, sta cambiando proprio il nostro rapporto con ciò che ci circonda. Siamo i nostri vestiti, le nostre scarpe, la nostra corsa, la nostra palestra, tutto sta producendo dati. Quello che dobbiamo cercare di fare è, nel privato, cercare di difenderci e di difenderli per utilizzarli nella maniera corretta. Nelle aziende, nell'enterprise, nel pubblico, fare in modo che questi dati siano sì protetti, siano conservati nella maniera corretta, ma siano anche la possibilità per avere un vantaggio competitivo nel costruire business per il futuro. Bene, io ringrazio Marco Fanizzi per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Ringrazio voi e ringrazio tutti i radioascoltatori. A proposito di privacy, dalla scorsa settimana le aziende che erogano pubblicità profilata su internet hanno un anno di tempo per adeguarsi alle nuove regole, alle novità che sono state decise a livello europeo e poi tradotte a livello nazionale dai vari garanti per la privacy. A proposito di Europa, non vedo l'ora che ci sia un unico garante europeo per la privacy. Inutile avere tante authority a livello locale, basterebbe avere una authority unica che poi decide su tutti i paesi membri dell'Unione Europea, i 28 paesi. Comunque, così sono attualmente le regole. Quali sono queste novità? Ne abbiamo parlato e l'abbiamo chiesto al presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro. Tutti sì, satelliti che fanno il monitoraggio della navigazione degli utenti con l'obiettivo di costruire una pubblicità mirata, di profilare il navigatore con l'obiettivo poi di proporgli un prodotto mirato. Naturalmente questo meccanismo e questa materia è disciplinata dall'ordinamento europeo, che prevede che l'utente, il cittadino che utilizza la rete possa e debba essere sia compiutamente informato sia poter esprimere un consenso libero. La complessità tecnica che è propria di un campo così rapidamente innovato nell'arco di questi anni ha reso difficile la osservanza, diciamo, delle direttive europee, per cui noi abbiamo cercato in un confronto molto, molto serio con gli operatori di trovare modelli di organizzazione, diciamo, dell'informativa e della raccolta del consenso che fossero da una parte esaustivi per il navigatore e dall'altra utili agli operatori, ai vari operatori che fanno profilazione, per poter rispettare la legge. E finora, diciamo, che l'obbligo previsto dalla legge era un obbligo, diciamo, scarsamente rispettato, diciamo che la tutela dei cittadini era virtuale, diventerà un po' più sostanziale attraverso questo modello che serve a dare un'informativa molto chiara, prima semplificata nella prima immagine che verrà visitata dal navigatore e poi più articolata nelle pagine interne con una per chi ne abbia piacere, interesse e desiderio. Ma naturalmente anche l'esercizio del consenso è un esercizio dinamico, nel senso che i provider che ospiteranno siti più diversi offriranno l'opportunità al navigatore di esercitare il suo diritto di esprimere un consenso, diciamo selettivamente. Può essere che l'offerta di un rapporto di monitoraggio da parte di una società assicurativa per me sia interessante e io in quel caso darò il consenso e quando vorrò potrò revocarlo. Se invece mi vengono offerti, non lo so, prodotti di altra natura che a me non interessano, potrò negare il consenso. Quindi c'è, diciamo, un approccio semplificato ma al tempo stesso efficace per coniugare al meglio l'esercizio dei diritti da parte dei navigatori e da parte degli operatori, una forma accettabile, tant'è che abbiamo raccolto anche un consenso molto esplicito, devo dire positivamente esplicito, da parte degli stessi operatori. Comunque per il navigatore della rete si tratterà ogni giorno, ogni ora, insomma in ogni momento in cui entra in un sito internet si troverà di fronte a questo messaggio, quindi troverà intanto un richiamo all'informativa, mentre il messaggio arriverà la prima volta che tu ti affacci alla pagina del Sole 24 Ore, vedrai che un banner molto visibile che ti dirà: se sei interessato a conoscere le informative clicca qui, se vuoi esercitare il tuo consenso favorevole clicca qui, se tu non clicchi da nessuna parte e prosegui nella visitazione delle varie pagine si intende che hai dato il consenso. Quindi è molto semplice e al tempo stesso abbastanza rigoroso. Quindi non tutti i giorni? No, tutti i giorni comparirà l'informativa. Sulle singole pagine visitate, una volta che l'esercizio del consenso è stato dato, può solo essere revocato e le informative facilmente accessibili spiegheranno come si può fare. Senta, non c'è il rischio che anche in questo caso questa ulteriore normativa, che giustamente va incontro alla tutela del consumatore, non venga vista dal consumatore come l'ennesima cosa da, in questo caso, non firmare ma cliccare? E quindi poi si trasformi in un'esperienza in cui uno accetta, ma poi in realtà non capisce nemmeno quello che accetta, un po' come le applicazioni sullo smartphone. Direi perché e poi il campo delle applicazioni sullo smartphone sono un tema molto delicato sul quale noi stiamo cercando di richiamare molto l'attenzione dei navigatori. Sul terreno della profilazione il cittadino medio non gradisce in assoluto il bombardamento pubblicitario, ma soprattutto non sa quanto possa essere e fino a che punto profilato. Può decidere di accettare, direi acriticamente, tutto, è una sua responsabilità, ma noi gli offriamo la possibilità, se vuole, non gliela offriamo noi, gliela offre la legge, noi cerchiamo di rendere efficace la norma, può farlo senza dover fare grandi fatiche, è in modo molto, molto semplice. Non sarà un appesantimento della navigazione, sarà un modello che rende veloce la navigazione e al tempo stesso in qualche modo presidiata. Diciamo che come in tutti i campi della società digitale, il problema non è tanto quello di fare nuove leggi, ma di conoscere a fondo le opportunità e rendere coniugata al più alto livello la semplificazione della tecnica con l'esercizio concreto dei diritti. I siti internet stranieri che quindi non risiedono nell'Unione Europea non devono adeguarsi a queste normative? Come è noto, siamo in un campo, in un tempo di forte innovazione della giurisprudenza europea che in un caso specifico, ma aprendo però un campo, direi una strada che ha carattere generale, ha affermato la giurisdizione territoriale rispetto anche a società che hanno sedi al di fuori dell'Europa. Questo non riguarda semplicemente questo profilo, cioè la disciplina dei cookies, ma più in generale il rispetto dell'ordinamento europeo di protezione dei dati personali. È una conquista che in qualche modo la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha fatto andando più veloce di quanto non sia avvenuto da parte del complesso trilogo Parlamento, Commissione, Consiglio dell'Europa, che hanno avuto l'opportunità per 2 anni di varare il nuovo regolamento. Confidiamo che lo faccia al prossimo Parlamento. Però intanto la Corte di Giustizia ha aperto la strada affermando la titolarità, diciamo, del cittadino a rivendicare i propri diritti anche nei confronti di una società che ha sede al di fuori dell'Europa, che però opera in Europa. E le società che fanno pubblicità in Europa, anche se hanno sede negli Stati Uniti, devono rispettare le regole europee. Chiarissimo. Le faccio un'ultima domanda di carattere generale. Se guardando al mondo digitale, quindi della rete internet, a che cosa si sta lavorando a livello italiano, ma immagino in modo coordinato poi a livello europeo, e quindi che cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi? I temi sono tanti, ma diciamo il tema principale è quello di affermare nello spazio digitale un sistema di presidi che senza togliere il profilo di grande libertà della rete sappiano anche rendere facilmente consapevole l'utente delle insidie che sono possibili. Questo sforzo di insieme promozione della consapevolezza e dall'altra anche di contrasto degli abusi che in più di una circostanza abbiamo accertato da parte dei grandi provider che hanno sede al di fuori dell'Europa, ha prodotto in quest'ultimo anno intanto una serie di procedimenti. Noi ne abbiamo concluso uno e aperto un altro molto, molto importante nei confronti di Google, ad esempio, ma lo abbiamo fatto in piena azione congiunta con le principali altre autorità europee. Mi pare di poter dire che ragionevolmente, un po' sulla spinta della nuova giurisprudenza, un po' sulla spinta di una nuova coscienza dei cittadini di tutto il mondo rispetto al tema della sorveglianza, l'attenzione per questi problemi è sicuramente cresciuta e i grandi operatori non possono non tenere conto della sensibilità nuova dei consumatori. Quindi non c'è soltanto l'amore e il rispetto del diritto, ma anche l'interesse a non porsi in un atteggiamento molto distante rispetto ai consumatori. Bene, Presidente, la ringrazio, le auguro buon lavoro, a presto. Anche a lei, buonasera. Prima di chiudere questa puntata, la nostra versione podcast di 2024 con le nostre interviste in versione integrale, questa settimana devo dire che avevamo molte interviste lunghe e quindi ve le abbiamo proposte nella loro versione integrale in questa versione podcast. Consigliate anche ai vostri amici di scaricare la versione podcast di 2024. Già da alcune settimane nel weekend siamo stati segnalati come primi in classifica nella classifica di iTunes. Certo, non tutti i nostri ascoltatori downloadano attraverso iTunes, lo si può fare sia da PC sia da terminale mobile su iPad o iPhone o anche iPod. Però diciamo che è l'unico che mette a disposizione le classifiche, quindi su quella un po' ci basiamo per sentire gli umori della rete, per vedere se c'è interesse sugli argomenti che affrontiamo. Comunque scriveteci per qualsiasi motivo a 2024@radio24.it. Adesso, dicevo, prima di chiudere questa puntata è con noi Pierangelo Soldavini per sapere che cosa c'è la domenica su Nova Il Sole 24 Ore. Ciao Pierangelo. Buongiorno a tutti. Partiamo dalla copertina dedicata a cosa questa settimana? Io questa settimana partirei direttamente dal paginone. Ah, sì? Che mi sembra più Tu sei appealing, libero di... hai il microfono aperto. Perché parliamo di videogiochi. Cioè, giusto. Cioè, l'E3 di Los Angeles, e quindi insomma è il, come dire, il paradiso dei videogamers. E anche di Luca Tremolada. E di Luca Tremolada che è lì, e, che è andato lì e ci fa vedere un po' di cose che ha visto. Ovviamente sono molto al di là dei videogiochi che arriveranno, che noi vi facciamo vedere. Intravedere, esatto. Sì, anche in realtà aumentata, come siete ormai abituati su Nova. Ci racconta anche un po' dei nuovi modi di giocare, che sono quelli un po' visionari dell'Oculus Rift, realtà virtuale, progetto Morfeo, sì, di questi giochi immersivi, per cui questi caschetti che si mettono sulla testa, che noi finora abbiamo visto probabilmente soltanto al cinema, ma che stanno arrivando anche nella realtà, sono delle mascherine dove noi ci ritroviamo proiettati in un mondo esterno. Allora lui per esempio racconta, al di là dei giochi in cui sembra di essere davvero in mezzo a delle scene, per cui racconta di uno squalo che ti gira attorno, racconta di quest'altro gioco in cui noi ci troviamo a simulare una passeggiata spaziale. Vediamo sotto i nostri piedi la Terra come se fossimo davvero nello spazio, come se fossimo a galleggiare nello spazio. Ecco, gli dice qualcuno poi dopo esce da questa esperienza con altri problemi, perché appunto ci sono dei problemi reali di paura e così, perché sono effettivamente... Tanto è simile alla realtà, questa realtà virtuale. Sì. Diciamo che questa è un po' la realtà su cui stanno puntando i produttori di videogiochi per cercare di stupire e di riconquistare, perché c'è un problema di business anche attorno. Per fare ripartire il business del videogioco. Esatto. Bene, Pierangelo, allora grazie per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie e buon lavoro anche a te. Anche per questa settimana chiudiamo la nostra serranda. Ci ripresenteremo la prossima settimana, sempre in onda su Radio 24 alle 15 il sabato pomeriggio. Oppure, come voi che state ascoltando questa versione sapete benissimo, nella nostra versione podcast. Le coordinate per raggiungerci, scriverci qualsiasi cosa vogliate, considerazioni, domande, critiche, apprezzamenti, eccetera, eccetera, 2024@radio24.it, oppure Facebook, la nostra pagina, cercando 2024, anche il nostro account Twitter. A proposito di Twitter, potete seguirmi cercandomi @Pagliarini. Io sono Enrico Pagliarini, ringrazio anche Anita Panizza che ci aiuta durante la settimana e naturalmente ringrazio tutti i nostri ascoltatori, sia quelli della trasmissione in onda, in FM, in digital radio oppure in streaming, o anche e soprattutto quelli che scaricano il podcast della nostra trasmissione. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 31 seconds.